Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, buongiorno! Siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. L'unica trasmissione interamente dedicata alla questione animale, al difficile, contraddittorio, spesso schizofrenico rapporto tra la specie umana e gli altri animali. Amati, odiati, torturati, mangiati, coccolati, vezzeggiati, cacciati, avvelenati, investiti, usati per sperimentare farmaci nei laboratori. Come sarebbe il mondo se semplicemente invece li rispettassimo? E cosa siamo in grado di fare, qui e ora, per arrivare a quel giorno? Ce lo chiediamo dal marzo 2012 e non intendiamo smettere di farlo. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Questa settimana puntata all'insegna del gusto, della cultura e dell'attualità, con un occhio di riguardo per i vegani di domani. Sapevate dell'esistenza degli ecoradicali? Se non lo sapevate, scoprirete in questa puntata che esiste un movimento con ambizioni politiche che si sta spendendo molto per i lupi e per i parchi italiani. Avremo ospiti anche alcuni tigri, ma di carta. Tradotto significa che vi racconteremo come viene trattata la questione animale sui principali giornali di carta stampata e nel web. Naturalmente ci sarà spazio anche per la gola, con una ricetta del nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni. E vi titilleremo le orecchie con un po' di buona musica. Restate in ascolto. House burned down, foes upon foes. West to east it goes. The dead girl says, let's just be friends. In the glorious tone of marrow and bone, these days of ore, the chance we meet once more. The smoke, lightning, crack asunder. The boom of guns, the peal of thunder. Burning down the house. Smoke of smoke. Chiamano Ecoradicali e sono l'associazione ecologista del movimento dei radicali italiani. In queste settimane si sono mobilitati arrivando a digiunare per ottenere una convocazione da parte del ministro Galletti sulla questione dei lupi italiani che sono a rischio per il famigerato piano lupi che rischia di appunto interrompere lo status di animale protetto per questo importantissimo, simbolico e prezioso animale. Il loro progetto però non è di pura critica. Hanno infatti presentato un piano alternativo in tre punti, che ha anche a che fare con il randagismo e la caccia. Si interessano di ambiente in modo complessivo e hanno lanciato la campagna hashtag Salviamo i Parchi, chiedendo una urgente mobilitazione nazionale simile e superiore a quella sui lupi, perché l'intera fauna italiana è a rischio, lupi compresi. Al segretario degli Ecoradicali, Fabrizio Cianci, chiediamo di raccontarci qual è l'obiettivo che si prefigge l'associazione. Abbiamo avanzato delle proposte alternative al piano presentato da Galletti, che come sappiamo apre alla caccia ai lupi, anche se poi il ministro la presenta come una caccia selettiva. I tre punti sono questi. Intanto l'applicazione, diciamo, della direttiva Habitat. Per esempio, noi per impegni europei dovremmo censire la fauna e soprattutto lo stato di salute degli habitat. Questo in un quarto di secolo che vige questa direttiva, l'Italia non lo ha mai fatto, l'Italia è stata ripetutamente condannata ed è nuovamente sotto procedura di infrazione per questa mancanza. Quindi l'Italia non ha alcuna conoscenza reale dei suoi habitat, punto primo. Il secondo punto è applicare la legge 281 del 91, che è la legge sul randagismo, e questa legge è disattesa da tutte le regioni, come ben sappiamo. Il problema del randagismo c'entra con la questione dei lupi, perché c'è tutta la questione dei cani ibridati con i lupi, che poi sono questi in realtà che si avvicinano alle attività umane, quindi siamo sempre noi a creare problemi. Questi cani non sterilizzati, appunto, poi si riproducono con lupi, e questi cani spinti dalla fame possono anche attaccare gli allevamenti. L'Italia è l'unico paese dell'Europa occidentale che ha ancora problemi endemici di randagismo. Faccio notare soltanto una cosa, che l'azione 22 del piano del ministro introduce delle deroghe a questa legge, e quindi si tornerebbe praticamente al regolamento di polizia veterinaria, che è del 1957, che appunto prevedeva abbattimenti sanitari dei cani randagi. Quindi a questo arriveremmo con questo piano. Il terzo punto. Noi chiediamo l'abolizione o almeno una moratoria per 5 anni di tutte le attività venatorie, quindi abolizione della caccia, nelle cosiddette aree tutelate per legge. Quindi sono per esempio tutte le aree boscate, le rive dei fiumi, le aree attorno ai laghi, eccetera. Questo permetterebbe, diciamo, di ricostruire dei corridoi ecologici, eccetera, e quindi aumentare la protezione degli habitat e evitare gli sconfinamenti, anche perché è proprio l'attività venatoria che obbliga in un certo qual modo anche gli animali a migrare dai loro habitat. A fine novembre, il 23 novembre 2016, in Senato, nel silenzio generale, è stata approvata in prima lettura una proposta di legge che va a riformare la legge quadro sui parchi e le aree protette. È stata presentata come una legge che riforma i parchi. In realtà è una legge che permette la libertà a qualunque ente parco istituire delle forme di caccia in deroga. Dentro i parchi, stiamo parlando di parchi naturali, e quindi torna il tema della caccia. Oltretutto il tema della caccia rientra sempre nei parchi, perché come sappiamo nelle aree contigue ai parchi oggi è possibile l'attività venatoria, ma i soli residenti. Invece con questa nuova legge viene aperta la caccia a chiunque. Con la legge vigente, quella non riformata, il presidente del parco deve avere delle competenze scientifiche molto chiare. Invece con la nuova riforma, sia il presidente che i consigli dei parchi sono di sola nomina politica. Si prosegue il definanziamento dei parchi, essendoci meno fondi. Con questa legge cosa si è pensato? Si è pensato a introdurre le cosiddette royalties. Le royalties sono dei canoni che dei privati verserebbero agli enti parco per lo sfruttamento delle risorse naturali presenti nel parco. Questo cosa vuol dire? La sopravvivenza dell'ente parco viene legata alla distruzione ambientale del parco stesso. È una legge che non riforma i parchi, ma in realtà li sfascia. Little cigar on a marble stair. Trying to find the ocean. Looking everywhere. Hard times in the city. In a hard town. Nowhere to run to. There ain't nothing here for free. Look on the corner, waiting for a train. Drunk, lying on the sidewalk. have their eyes. Lutto in casa Sea Shepherd. È morto Rob Stewart, biologo, fotografo e regista. Nato e cresciuto a Toronto in Canada, Rob Stewart a soli 13 anni era già un fotografo subacqueo e ha continuato per tutta la sua vita a viaggiare, a documentare la condizione degli animali marini, in particolare la tragedia degli squali. L'autore del famoso documentario del 2007, Shark Water, è scomparso martedì scorso, quando, insieme ad un piccolo gruppo di sub, era impegnato nelle riprese di quello che sarebbe dovuto essere lo scenario naturale del sequel di Shark Water. Con la sua scomparsa se ne va una stella nascente della nuova cinematografia d'inchiesta. Rob Stewart se ne va inghiottito dal suo oceano e gli squali da adesso sono più soli. Popolo dei voucher e delle partite IVA, buttatevi sulle lumache! Il secolo XIX nei giorni scorsi ha evidenziato che allevare lumache è un grande affare. 44.000 lumache tra vive e conservate in una sola azienda agricola. Anche le lumache sono animali silenziosi, della cui sofferenza importa il giusto. Quindi non fa clamore il boom del consumo dei corpi e dei sottoprodotti di questi viventi e sensibili. Il quotidiano di Genova la chiama intuizione scommessa. C'è chi brevetta una macchina per raccogliere la loro bava, chi le alleva per fare un liquore, chi invece usa bava, polpa e uova per i poteri terapeutici e cosmetici, contro smagliature, acne, cicatrici e rughe. Secondo Coldiretti, in Italia si registra la nascita di nuove imprese di allevamento spesso condotte da giovani con esperienza di avanguardia anche a livello internazionale. Una produzione che riesce a coprire quasi la metà del consumo. L'istituto di Cherasco ha calcolato che nel 2014 il valore globale dell'intera filiera, produzione in allevamento, importazione, lavorazione industriale e consumo gastronomico, ha superato i 210 milioni di euro. Poca cosa se si considera che a livello mondiale si parla di un giro d'affari che negli ultimi due anni, e solo sulle piazze all'ingrosso, ha superato i 10 miliardi. Se dai giovani in età lavorativa non possiamo aspettarci più di tanto, possiamo ancora sperare nei bambini. Lo dice Camilla, ma lo dicono anche Agata e Roberta, ideatrici e conduttrici della rubrica Speriamo che sia vegan, dedicata ai libri per i bambini che amano gli animali. Speriamo che sia vegan. Letture per bambini che amano gli animali. Il loro telefonino squillava sempre, sempre. Tutti li chiamavano, aiuto, aiuto. E loro partivano, ma chi? I bambini, ovvio. Quelli raccontati nel libro di Vivian Lamarck, i bambini li salveranno chi? Gli animali. Tutti insieme in un'ambulanza vivente per soccorrere i loro compagni non umani dalle violenze o dall'indifferenza perpetrata dal mondo adulto, cieco e sordo al dolore altrui. Brevi storie nelle quali la semplicità e purezza infantile si scontrano con una realtà che gli stessi bambini stentano ad accettare, dove gli animali sono rinchiusi, imprigionati, cacciati, perseguitati, bolliti vivi, sfruttati, ingozzati. Eppure in questo mondo, che sembra così imbrigliato in una catena inarrestabile di sopraffazioni e ingiustizie, loro possono rappresentare un futuro di speranza, con piccoli gesti, parole o idee geniali. Ecco allora la bambina salvaoche, che agli uomini ingozzatori risponde: ma questi sono fatti nostri, tutti i fatti di chi soffre, animali, piante, uomini, donne e bambini, sono fatti nostri, capito? Lasciate in pace queste oche e ingozzatevi voi, brutti mostri che non siete altro. Oppure c'è la bambina con il ventaglio, che appena l'avvertivano che stava passando una di quelle prigioni con le ruote che trasportano vitelli verso i macelli, si precipitava in loro soccorso per rinfrescarli un po'. O ancora il bambino apre gabbie, quelle che i venditori di gabbie avevano anche il coraggio di dire che erano belle, grandi e comode. Ecco, adesso immagina di dover passare tutti i giorni, tutte le notti, tutte le settimane, tutti i mesi, tutti gli anni della tua vita dentro lì. Sempre? Sempre. Anche la domenica? Anche la domenica. Anche a Natale? Sì, anche a Natale e anche a Pasqua. Anche durante le vacanze? Anche durante le vacanze. Immobile? Il bambino Salvatorelli invece porta in salvo da via dell'inganno numero 100 due torri destinate alla corrida con lo stratagemma di un latte al purgante. E poi c'è il bambino Salvaragoste. Guarda papà come stanno strette quelle aragoste in quella vasca. È vero, sembriamo noi sul tram nell'ora di punta, solo che noi dopo scendiamo, loro no. In quel momento si avvicinò alla vasca un cameriere con un retino. Cosa fa papà? Le porta in vasche più grandi così stanno più comode? Il papà non rispose. Pronto soccorso, chi parla? Corri, corri, aiuto, aiuto, la mia figlioletta aragosta sta per essere cotta viva. I bambini li salveranno. Chi? Gli animali? Di Vivian Lamarck, illustrazioni di Adriano Gon, per bambini dai 5 anni in su. Editore Einaudi Ragazzi, 94 pagine, costo 6,90 €. Camilla, sapessi com'è strano essere rosso nero e vegano? Abbiamo trovato divertente questo articolo di Lia Celi pubblicato sul sito www.lettera43.it che, pur essendo molto brillante e divertente, evidenzia la persistenza dei pregiudizi che esistono nei confronti di una alimentazione naturale. La notizia è la seguente: niente più carne bovina né pomodoro. Così ha deciso il preparatore atletico del Milan che affianca il coach Emanuele Marra. Vegano e salutista, assistito da un naturopata di Gallarate, Marra ha abolito il rosso dal menù di Milanello e c'è chi sospetta che sia questa, più che gli infortuni e il braccino corto nel calciomercato, la vera causa dello scarso rendimento in campo della squadra rossonera, assieme all'introduzione nella dieta di uno straniero di cui si dice tanto bene, ma che non ha rafforzato la squadra, il kamut, cereale di origine egiziana come El Shaarawy, ma non altrettanto vincente. Messa così, la sorte della dieta vegana sembra dunque inscindibilmente legata ai risultati della Serie A. È il momento della nostra rubrica Altra Animalista, Tigri di Carta. A cura del nostro Lorenzo Guadagnucci. Tigri di Carta. Rassegna stampa Altra Animalista. Due questioni hanno tenuto banco sui giornali nelle ultime settimane: il rinvio del piano lupo allestito dal Ministero dell'Ambiente e poi l'inserimento nel paniere Istat, che serve per misurare il costo della vita, di alcuni alimenti tipici delle diete vegane e vegetariane. Sul primo punto, i lupi, la complicata vicenda, anche sotto il profilo politico, ha permesso ai quotidiani di esprimere le proprie posizioni e dare voce ai vari protagonisti. La stampa, ad esempio, il 1 febbraio ha titolato «Si riapre la caccia al lupo alla vigilia della conferenza Stato-Regioni», ospitando anche un intervento di Mario Tozzi riguardante anche i parchi, nel quale Tozzi ha scritto: «La stagione venatoria appena conclusa riporta il solito bollettino di guerra alle specie protette. Fra queste,

C'era chi prometteva più pilo per tutti, ma i tempi cambiano e oggi fuori dai locali si può trovare una scritta del tipo «Niente pellicce nel mio bar». È un fatto vero. I proprietari del bar Arengo a Monza hanno appeso un divieto d'entrata alle pellicce sulla porta d'ingresso del loro locale e hanno postato la foto sui social. Sul cartello, una pelliccia con una bella croce sopra. I cani e gli altri animali sono benvenuti, ma non il risultato del loro scuoiamento. Il divieto è rivolto alle pellicce e non a chi li porta. Infatti è stato lasciato un gancio fuori per appenderle prima di entrare. Ma naturalmente la polemica divampa in città e non solo. Non mi importa perdere qualche cliente, afferma il proprietario. Desidero solo lanciare un messaggio ed educare al rispetto anche degli animali. Quando anche un commerciante è disposto a perdere clienti e profitto per un'idea di giustizia, vuol proprio dire che qualcosa sta cambiando. In un bar che si schiera contro le pellicce, a essere coerenti, non bisognerebbe mangiare prodotti di origine animale. Sono forme di allevamento e di uccisione che si equivalgono, come ci hanno mostrato le migliaia di video accessibili su YouTube e in generale sulla rete. E noi pensiamo che gli animali vadano rispettati tutti, umani inclusi, naturalmente. Per questo motivo il nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni ha fatto una scelta radicale e non cucina più niente che abbia... Un cuore. Un culo. Due occhi o anche uno solo. Vabbè, diciamo un sistema nervoso centrale. Anche non tanto funzionante. Sarà meglio che ascoltiamo la ricetta. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Polpette di pane affogate. Attenzione, si avvertono gli ascoltatori che la ricetta che andrà in onda fra pochi istanti non è consigliata a chi non tollera la suspense. Entri in casa dopo una lunga giornata di lavoro, stanco o stanca, e con molta fame. Apri il frigo e ti accorgi che hai dimenticato di fare la spesa. Solo e sconsolato, in un cestino sul tavolo, un tozzo di pane secco. In dispensa un sacchetto quasi finito di farina di ceci e in frigorifero mezza bottiglia di passata di pomodori, un ciuffetto di prezzemolo e uno spicchio di aglio. Potresti richiudere la porta e andare a mangiare una pizza o ripiegare su un piatto di pasta, che però non hai. Invece no, non ti arrendi e con un gesto quasi biblico spezzi il pane e lo metti in ammollo in acqua. Nel frattempo triti uno spicchio di aglio con un po' di prezzemolo. Stemperi quei 4 cucchiai di farina di ceci con poca acqua, ottenendo una pastella bella densa. Strizzi con energia il pane, sbriciolandolo, e lo unisci alla pastella di ceci e a metà del trito di aglio e prezzemolo. Aggiusti di sale e pepe e una macinata di noce moscata. Mentre lasci questo impasto riposare per qualche minuto, fa risolare l'altra parte del trito di prezzemolo e aglio con poco olio extravergine. Quindi aggiungi la passata di pomodoro. Aggiusti di sale e fai ritirare a fuoco lento. Nel frattempo, fai delle palline con l'impasto di pane e le friggi in immersione in olio bollente per pochi minuti. Scoli bene le polpettine facendo assorbire l'olio in eccesso su carta per frittura, quindi le affoghi nella salsa e voilà! La scena è salva. Siamo in chiusura e come sempre vi ricordiamo le voci che avete ascoltato e chi si è smazzato per produrre questa e altre puntate. Fabrizio Cianci, Agata e Roberta Marino, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Giuseppe Coco e la mitica Camilla Lattanzi. L'appuntamento con Restiamo Animali è tra una settimana esatta. Stesse onde, stessa ora. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.